9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, Oscar Gino torna a augurarvi un buon martedì 27 ottobre e a invitarvi a riflettere insieme ai nostri ospiti, tutti quanti con rigore ma anche con equilibrio nei toni, sulla questione Tremonti. Che cos'è questa questione Tremonti sollevata la settimana scorsa, dopo che all'inizio di settimana Giulio Tremonti aveva sollevato un mezzo vespaio di polemiche, ma insomma ce ne eravamo occupati anche noi difendendo il posto fisso come valore. All'epoca il Presidente del Consiglio lo aveva immediatamente coperto di fronte alle accuse, alle critiche che si erano levate da una molteplicità di osservatori, critiche che secondo me erano molto legittime. E poi pochi giorni dopo il Presidente del Consiglio rilascia una dichiarazione in cui annuncia l'intenzione di porre il taglio dell'IRAP da intenti programmatici sottoscritti con gli elettori, da rimetterla al centro per iniziarla ad attuare fin dal 2010, e il Ministro dell'Economia reagisce male, per così dire, fa sapere che questa dichiarazione del Presidente del Consiglio non è concordata con lui, si crea un problema, il Presidente del Consiglio non rientra in tempo dalla Russia, dove era a San Pietroburgo, per partecipare al Consiglio dei Ministri, per rincontrare lo stesso Ministro. Sabato avviene un incontro che dalla ricostruzione giornalistica avviene più perché Bossi chiede a Berlusconi di incontrare il Ministro dell'Economia che perché Berlusconi fosse davvero convinto e felice di incontrarlo. Risultato, siamo arrivati al martedì mattina, come potete leggere sui giornali di oggi, ancora oggi la questione è aperta. C'è una questione relativa anche al titolo del ministro nel governo, poiché dichiarazioni di Bossi praticamente tutti i giorni in merito all'opportunità di nominarlo vicepresidente del Consiglio sono rimaste prive di accoglimento. Anzi, Berlusconi ha convocato per la prima volta i vertici del partito per in apparenza far dire ai vertici della PDL no alla richiesta di Tremonti. Un Tremonti quindi che molti osservatori analizzano come oramai fuori dalla PDL e più ministro della Lega che ministro della PDL. Altri giornali entrano invece nel merito della questione, e cioè del scontro, per così dire, tra la linea del rigore, che è la linea incarnata dal ministro, che accusa molti del suo stesso partito, molti colleghi di governo, di voler attentare questo rigore con richieste di spesa per i quali non ci sono i margini, e dall'altra parte chi invece indica scelte di paesi come la Francia e la Germania e l'accordo di governo appena sottoscritto in Germania con tagli di tasse per 24 miliardi, le dichiarazioni della Merkel rese ieri dicendo fino a che non usciamo dalla crisi il deficit può aspettare, se noi anteponiamo a tutto il rigore dei conti usciremo dalla crisi più tardi e peggio. Le voci attribuiscono a Berlusconi una certa arrabbiatura, dicendo ai suoi uomini di più stretta fiducia: Tremonti mi ha preso in giro, perché dichiarava che tutti in Europa si apprestavano addirittura ad aumentare le tasse, invece vedo che le tagliano, altro che. Insomma, esiste una lettura politica, esiste una lettura economica. Noi tenteremo di approfondire entrambi per tentare di capire e di spiegare meglio che cosa sta avvenendo. Vi presento dunque i nostri ospiti. Abbiamo con noi Mario Baldassarri, che è presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Buongiorno Baldassarri. Buongiorno a tutti voi. Gaetano Quagliariello, che è il vicepresidente vicario del PDL al Senato. Buongiorno Quagliariello. Buongiorno. E Massimo Franco, editorialista e notista politico del Corriere della Sera. Buongiorno Franco. Salve, buongiorno a tutti. Allora, io comincerei da Baldassarri per esaminare l'ipotesi tecnica, per così dire, cioè se nel merito Baldassarri, che viene indicato ed è di fatto l'artefice di una serie di emendamenti rispetto a questa finanziaria di tre soli articoli, tre poche tabelle, e lo avevamo già sentito la settimana scorsa, tentiamo di capire meglio con lui se davvero esistono due linee, o comunque ci spieghi rispetto alla linea della finanziaria come si può articolare una linea diversa in cui c'è sia rigore, taglia le tasse, che più aiuti allo sviluppo. Prego Baldassarri. Beh, intanto preciso subito, se per questione tecnica si intende la conoscenza dei dati, mi assumo certamente questa responsabilità, ma ciò che è la mia proposta, non la mia proposta, la valutazione anche più ampia di un gruppo di senatori, ma anche all'interno del PDL come codice genetico, è una considerazione politica e sociale, e cioè se noi controlliamo soltanto il deficit pubblico, cosa assolutamente sacrosanta e da fare, ma senza modificare l'enorme livello di spesa pubblica e l'enorme livello di tassazione, noi accettiamo di fatto un andamento inerziale dell'economia per la quale ci sarà una ripresa, ma il recupero del reddito, dell'occupazione, dei tassi di disoccupazione che avevamo nel 2007 avverrà tra il 2014 e il 2015. Quindi c'è bisogno di dare un impulso più forte di politica economica, senza una lira in più di deficit. Questo vuol dire che occorre prima tagliare la spesa, poi tagliare le tasse, fare più investimenti in infrastrutture e in ricerca e magari dare anche più risorse alle forze di polizia e alla sicurezza. Questo è un po' il senso del quadro degli emendamenti che abbiamo presentato come contributo alla discussione al Senato. Ora, il problema quindi non è tagliare le tasse, ma tagliare la spesa. La domanda di fondo è: sugli 800 e passa miliardi di spesa pubblica che abbiamo ogni anno, che è aumentata di più di 100 miliardi negli ultimi 3 anni e di conseguenza è aumentato di più di 100 miliardi il prelievo fiscale, dopo la botta Prodi Visco-Padoa-Schioppa, è possibile tagliare la spesa pubblica corrente? La nostra risposta è doveroso. Perché? Perché ci sono quantomeno delle voci che sono sospette e quindi tagliabili, sospette di essere sprechi e per non dire altro. Noi abbiamo individuato 2 di queste voci. La prima, che sono tutti gli acquisti della pubblica amministrazione, che è aumentata del 50% in pochi anni, con all'interno soprattutto gli acquisti e consumi intermedi del settore della sanità. La seconda, quella dei fondi perduti, cioè dei sussidi dello Stato sparsi a pioggia, che ogni anno implicano una spesa di 44 miliardi di euro. Bene, all'interno di queste 2 voci proponiamo di reperire risorse. 30-35 miliardi, nei nostri emendamenti sono 35 miliardi, 20 miliardi in meno sugli acquisti, 15 miliardi in meno sui fondi perduti, trasformando questo aiuto dello Stato, invece che dare soldi ex ante per le iniziative di investimenti nuovi, di occupazione, e sappiamo poi che dopo 2 o 3 anni i soldi sono stati spesi da parte dello Stato, ma le imprese forse non ci sono più. Invece di fare questo, si sostituisce con cosiddetto fisco zero, cioè col credito d'imposta. Il sostegno dello Stato viene quando l'impresa c'è, ha assunto operai, fa profitti e quindi a quel punto non paga tasse fino alla corrispondenza del sussidio europeo stabilito come tetto, equivalente sovvenzione netta, e quindi non c'è bisogno di chiedere nulla di permesso all'Europa perché è già così da oltre 15 anni. Se ci sono questi tagli di spesa, allora evidentemente è possibile dare alle famiglie una forma di coefficiente familiare con una deduzione di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare, cioè 15 miliardi di sgravi fiscali alle famiglie. È possibile togliere i salari dalla base imponibile dell'IRAP, 12 miliardi di sgravi fiscali. È possibile dare un impulso alle infrastrutture per 5 miliardi, alle forze di sicurezza e di polizia per 2 miliardi e alla ricerca tra università e industria per 1 miliardo. Ovviamente questi ragionamenti sono proposte sul tavolo, tant'è che a fronte di un emendamento complessivo che inquadra questo tipo di manovra, che è aggiuntiva, non è alternativa a quella del Ministro dell'Economia, abbiamo fatto altri 7 emendamenti che sono i pezzi, le componenti di questa manovra. E qui la fermo, senatore Baldassarre, perché io capisco tutto, ma dire non è alternativa, è aggiuntiva, insomma, dobbiamo intenderci su cosa voglia dire. Sì, può essere composta, per così dire, però il ministro, mi pare di capire, Tremonti, la considera, almeno fino a questo momento, fino a nuovo ordine, fino a che magari si manifesta una diversa volontà conciliatoria nel confronto parlamentare, la considera alternativa e soprattutto, mi pare di capire, la considera, pur non volendogli attribuire alcuna manifestazione di volontà che non ha ancora espresso, la considera poco credibile nel contenimento della spesa. Perché se una cosa bisogna intendere da tutto quello che Tremonti sta facendo scrivere in questi giorni è che dice le obiezioni mi vengono fatte in nome di un partito della spesa. Vediamo invece la cosa politica col senatore Quagliariello. I giornali stanno esagerando con la fantasia nel dire un Tremonti fuori dalla PDL, c'è il Corriere della Sera, insomma il più grande giornale italiano, che dice fior di titoli su questo. Berlusconi sulla linea dura, basta deleghe in bianco, per Berlusconi il ministro si è messo fuori dal PDL. Comunque, ammettiamo che i giornali forse un pochino eccedano, ma quanto eccedono? Quanto si è creato un problema politico vero su questa vicenda, nei rapporti con la Lega, nell'apparenza e nella sostanza di una guida dell'economia che dice allo stesso Presidente del Consiglio devi concordare con me prima di parlare, anche se sei Presidente del Consiglio? Buongiorno a tutti innanzitutto. Io penso che questa vicenda è una tipica vicenda di cambiamento di fase. Nei suoi aspetti contenutistici in realtà sconta il passaggio da una fase estrema della crisi, nella quale Tremonti ha operato molto bene, nella quale il nostro paese è riuscito a tenere la barra molto meglio di altre economie che si trovavano in condizioni apparentemente migliori, ad una fase nella quale la crisi continua a espletare i suoi effetti, ma inizia a vedersi in qualche modo, a intravedersi la fine del tunnel. Ecco, questo passaggio di fase non è solamente un qualcosa che si riferisce allo scenario esterno, è anche qualcosa che si riferisce allo scenario interno. Noi stiamo passando in questi giorni, la cosa è sotto gli occhi, da una fase nella quale la lotta all'interno del centrodestra era prevalentemente lotta di personalità, possiamo dire lotta di leader, ad un'altra fase nella quale un soggetto bene male è nato, cioè il PDL si è strutturato e pretende di svolgere, diciamo, la sua funzione di partito a vocazione maggioritaria. Ora, di questa cosa devono tener conto tutti, anche se è molto difficile farlo, perché evidentemente questa cosa non c'era, non aveva ancora uno statuto, non aveva ancora degli organi che si riunivano, non aveva ancora dei luoghi di dibattito, non aveva ancora la possibilità di votare a maggioranza o a minoranza. Io penso che in qualche modo ne debba tener conto Berlusconi, e mi pare che in qualche modo lo stia facendo, nel senso che ha probabilmente compreso che la forza di un leader, se si esplica d'accordo con un partito, è maggiore. Ne debbano tener conto anche i maggiori protagonisti, diciamo, del centrodestra. Penso che se ci avesse pensato un attimo, forse il ministro Tremonti non avrebbe fatto l'errore di presentarsi alla riunione ad Arcore accompagnato da Bossi e Calderoli, perché ha quantomeno dato l'impressione di un maggior distacco nei confronti del suo partito. Certamente. Da questo punto di vista facciamo intervenire Massimo Franco. Franco, oggi nella nota che ha scritto per il Corriere della Sera, dal titolo Lo scontro con la Lega fa ritrovare affini l'intesa con Berlusconi, dice testualmente che la nota appunto di Palazzo Chigi, bisogna stare attenti a interpretare parola per parola quando si trattano dei momenti di tensione politica, ma nella nota emessa da Palazzo Chigi, dice Franco, quello che si può intendere è di un capo del governo che appunto si avvicina, sembra più avvicinarsi alla linea espressa da Fini, una linea fortemente critica nei confronti di Tremonti, e prendere invece un passo di distacco, una misura di distacco nei confronti della Lega. E così c'è, come si sta registrando politicamente questa vicenda Tremonti dal tuo punto di vista? Buongiorno a tutti, innanzitutto anche da parte mia, ma intanto mi pare di capire da quello che diceva il senatore Quagliariello che il problema è quello dei rapporti fra il centrodestra berlusconiano, la PDL o il PDL e la Lega. Questo mi pare ci sia oggi, e non a caso avviene sul piano economico, che è la vera discriminante di questa fase. In realtà si vede adesso che questa maggioranza entra in tensione non per questioni secondarie come le vicende private del Premier o altre, ma viene affronta un momento un po' difficile quando si tratta di economia. Allora, vediamo un attimo i due punti. Intanto, è vero che Tremonti oggi è fortemente sotto tensione, che l'idea di essere stato accompagnato dai leghisti, dai vertici leghisti ad Arcore, lo ha, a mio avviso, leggermente isolato all'interno del centrodestra, del suo partito soprattutto. Ricordo anche che però Tremonti fu già costretto alle dimissioni nel 2004 e dopo un anno il governo lo richiamò perché riprendesse il posto che aveva dovuto lasciare. Quindi ho l'impressione che la pressione su di lui sia qualche cosa che è vistosa e probabilmente inevitabile, visti i rapporti di forze che si sono creati, ma l'idea che il governo appaia agli occhi dell'Unione Europea come un governo che non contiene più le spese mi sembra qualcosa con la quale la maggioranza debba fare i conti. Terzo dato, e finisco, è anche un po' singolare che una maggioranza che ha circa 100 parlamentari di vantaggio in Parlamento dia oggi questo spettacolo di lite, perché l'impressione che rischi di scaricare sul Paese i suoi problemi. Allora quello che mi chiedo è come mai si sia arrivati a questo punto senza che nessuno prima sia riuscito a contenere queste tensioni, a pilotarle, a indirizzarle. Adesso credo sia abbastanza facile, inevitabile prendersela con Tremonti, ma vorrei capire come mai questa cosa non è stata gestita prima. Posso farti una domanda? Ai tempi del 2004-2005, cioè della messa alla porta di Tremonti, poi finita con il richiamo per il rischio che altrimenti la legislatura finisse con un deficit largamente superiore al 5% del PIL, quindi il richiamo, ma all'epoca la questione era perché nel centrodestra c'era una maggioranza fatta però di coalizione, c'era l'UDC, c'era Enne, insomma erano i capi dell'UDC e di Enne di dire, che dicevano con grande forza, Tremonti non c'era. La questione della Banca d'Italia. Esattamente, tra l'altro. In questo caso PDL ha solo la Lega. La Lega difende assolutamente Tremonti. Quindi è un problema interno a PDL, ma dipende dal fatto che non ci sono ancora regole di un partito nuovo appena fatto, oppure dipende dal fatto che secondo te è solo una questione personale, cioè che Tremonti ha proprio delle difficoltà congenite, per così dire, ma a concepire. Sono fattori che si sommano e si intrecciano, nel senso che si sa che Tremonti ha un carattere spigoloso, ma si sapeva anche prima innanzitutto. Io credo che in realtà, intrecciandosi queste vicende, venga fuori una lettura della coalizione che lo stesso Berlusconi ha dato in questo primo anno e mezzo come la Lega, come rapporto privilegiato. Questa è la cosa che mi pare sia messa in crisi, cioè da una parte c'è questa lotta per il primato nel nord che acuisce le tensioni fra la Lega e il Popolo delle Libertà. Secondo, c'è la ribellione del centrodestra in Sicilia, la faida interna del centrodestra in Sicilia, che dà qualche segnale abbastanza inquietante sulle capacità di amalgama del Presidente del Consiglio, il quale storicamente ha tenuto insieme tutto. C'è una lettura diversa della crisi economica, probabilmente c'è anche un problema di rapporti umani logorati dentro il governo. La somma di questo è la crisi alla quale stiamo assistendo, strisciante. Però ripeto, io ho l'impressione che il dato principale sia, forse perché ha ragione il senatore Quagliariello, oggi il PDL sta assumendo la propria identità e personalità. Quello che entra veramente in crisi è il rapporto di forza interna fra il Popolo delle Libertà e la Lega, perché la Lega viene da una vittoria elettorale e quindi si sente investita del compito di quasi anticipare il suo primato nel nord. Proprio per questo motivo il resto del centrodestra, soprattutto al nord, deve resistere e deve scacciare l'incubo di una Lega che cannibalizza il partito di Berlusconi. Credo che le tensioni, al di là della lettura diversa della crisi, nasca anche da questa differente percezione di quelle che sono le prospettive del centrodestra. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino torna a richiamarvi al tema del giorno, un'interpretazione della questione Tremonti tra necessità di registrare gli equilibri politici nel rapporto tra PDL, Lega e il rapporto personale tra il Presidente del Consiglio e i componenti più ingombranti, diciamo così, e più importanti anche del suo esecutivo, a cominciare da Giulio Tremonti, da una parte. Dall'altra cercare di capire meglio tecnicamente, e senza che in questo ci sia una reduzio, per così dire, con questo avverbio, visto che il senatore Baldassare giustamente diceva attenzione, la tecnica è politica in questo caso, ha perfettamente ragione, ma questo secondo aspetto è quello di tentare di capire politicamente come stanno messe le cose sui numeri, le cifre della finanza pubblica, e questo bivio che abbiamo capito essere al centro di questa questione, e lo stesso bivio che fa cambiare il passo in Germania, ed è il bivio che si apre quando, dopo aver tenuto di fronte all'emergenza del primo anno della crisi finanziaria ed economica, l'emergenza che si configurava nella necessità di capire l'intensità della crisi e di difendere la credibilità dei conti pubblici per impedire che esplodesse il deficit, adesso però si pone la scelta: come fare per tentare di accelerare l'intensità, la rapidità di uscita dal sentiero della crisi, accrescendo il prodotto potenziale. Ecco, senatore Baldassarri, il Foglio di oggi, per esempio, in prima pagina, io uso i giornali per far capire a chi c'è a casa quanto possono essere diverse le voci e le interpretazioni. Il Foglio di oggi, diretto da Giuliano Ferrara, in prima pagina mette due colonnine con un titolo, La Babele antitremontiana, in cui l'analisi è questa: cioè, tra i propugnatori di una politica economica che integri o superi quella di Giulio Tremonti, convivono le stanze più diverse. Ci sono i liberalizzatori, gli statalisti, i rigoristi, gli sviluppisti. Oggi stesso sul Corriere della Sera Francesco Giavazzi dà una specie di controprogramma addirittura totale del governo rispetto a quello di Tremonti, ci mette di tutto, interventi delle pensioni e così via. Io rimango su quello che mi sembra invece il confronto più concreto, quello che state tentando di animare in Parlamento sulla finanziaria. La domanda che le faccio è: di fronte al più dei tagli di contenimento, quindi del deficit, della spesa corrente, che abbiamo capito sono consumi intermedi della macchina pubblica e trasferimenti alle imprese a fondo perduto, di fronte a questo, perché in passato non è stata intrapresa la strada di un contenimento tanto rigoroso e tanto quantitativamente impegnativo come quello che lei indica nei suoi emendamenti? Perché è difficile farlo? Perché ci saranno reazioni politiche? Perché le imprese punteranno i piedi? Perché? Beh, mi faccia sottolineare, Giannino, due apparenti paradossi, e cioè queste nostre proposte in Parlamento e in Senato, che tagliano la spesa sugli acquisti, consumi intermedi e fondi perduti, vengono da qualcuno interpretate come il partito della spesa. Questo è un po' paradossale, semmai c'è da chiedersi se sia possibile o meno tagliare quelle cose. Ora, chi dice che non è possibile tagliare quelle due voci di spesa si allinea perfettamente al precedente governo Prodi Visco-Padoa-Schioppa, che le ha aumentate e di conseguenza ha dovuto dare la botta fiscale che tutti ricordiamo e che continuiamo a pagare. Quindi si tratta semmai di tornare indietro rispetto al precedente governo di centrosinistra, niente di più e niente di drammatico. Quindi questo è il primo paradosso. Il secondo paradosso riguarda un pochino Lega, PDL e il rapporto con i propri elettori, perché il codice costitutivo genetico di entrambi i partiti è stato da sempre quello di ridurre la spesa pubblica per poter ridurre la pressione fiscale, come confronto serio politico con il centro-sinistra, che invece preferisce aumentare la spesa pubblica e aumentare il prelievo fiscale. E allora a questo punto è un po' paradossale anche all'interno della Lega che si faccia semplicemente la difesa dello status quo, difesa purtroppo dello status quo che metterebbe la finanza pubblica in condizioni comunque di fragilità, perché se accettiamo l'andamento inerziale, quel rapporto debito pubblico-PIL che già oggi è doppio rispetto alla Germania, ed è per questo che non possiamo fare tagli fiscali e basta senza tagliare la spesa come pare proponga la Merkel in Germania, ma quel rapporto tornerebbe, esploderebbe fino al 130% e tornerebbe al 105% del PIL, cioè il dato che abbiamo avuto nel 2007, ci tornerebbe nel 2020. E se nei prossimi anni aumentano i tassi di interesse ulteriormente, se nei prossimi anni l'euro, Dio non voglia, ma si apprezzerà, come qualcuno dice, a 1,60-1,70, poi ci troveremo veramente in condizioni di forte rischio. Ultima questione: perché giustamente dice lei queste voci di spesa non sono state tagliate negli anni passati? Ma qui non ci dobbiamo nascondere dietro a un dito. Queste voci di spesa, quella sugli acquisti è esplosa da 90 a 125 miliardi di euro negli ultimi 4 anni e nel DPF si vede una progressione che la porta a 140 miliardi di euro. I 44 miliardi di fondi perduti, togliamo pure, mettiamo al riparo quelli che servono per il trasporto pubblico locale, quelli che servono per le ferrovie, ma ne restano comunque 24. Dobbiamo chiederci a chi vanno questi fondi in realtà. Secondo me vanno a 100-200 mila persone che nuotano in questo mare, in questo brodo di appalti, consulenze, che in qualche caso sono anche malversazioni, che in qualche caso finanziano pure la grande criminalità, ma anche la piccola criminalità diffusa sul territorio. Quello slogan della Lega Roma ladrona, in realtà se uno guarda i dati del bilancio pubblico si accorge che in Italia di Rome ladrone ce ne sono tante, al nord, al centro e al sud. Ecco, da una parte sul piatto della bilancia è chiaro che si va a toccare quegli interessi di 100, 200 mila, 250 mila persone, soggetti che godono di questi privilegi attraverso la spesa pubblica. Però dall'altra parte lei dice ci sono 57 milioni. Ci sono 57 milioni di italiani e soprattutto i milioni e milioni di italiani che hanno votato sia il PDL sia la Lega proprio per questo motivo. Certamente. Senta, ecco, Quagliariello, ci aiuta un secondo a capire adesso, prescindendo da Tremonti, dalle sue difficoltà, poi tra l'altro le interpretazioni sui giornali sono le più varie e diverse, perché questa è stata la prima volta in cui i giornali più vicini al centrodestra hanno, non dico cavalcato, ma diretto il fuoco sulla questa questione, mentre gli altri assistevano avendo evidentemente meno fonti dirette. Quindi questa particolarità ha fatto capire a tutti che questa volta il problema politico era serio, perché era il giornale, era Libero, che hanno iniziato a dire Tremonti esagera, Tremonti sbaglia, Draghi al posto di Tremonti e così via. Ma detto tutto questo, nei rapporti con la Lega invece, in Parlamento e soprattutto in vista delle regionali delle candidature, e si tratta di registrare un rapporto che funziona, o si tratta del fatto che di fronte alla durezza della crisi economica e alle prospettive di fondo tra nord e sud e l'articolazione della PDL appena nata, del suo sviluppo, con la Lega c'è qualche cosa di più di una registrazione di qualche vite da mettere a posto? No, vede, se avessi potuto finire il ragionamento nell'intervento precedente, avrei detto un'altra cosa. La nascita del PDL implica che tutti i leader ne devono tener conto, così come ne deve tener conto la maggioranza. Io devo dire con sincerità che appunto le proposte, anche quelle che ha esposto oggi il senatore Baldassarre, che sono molto suggestive, sono per il momento proposte suggestive di un parlamentare. Fare questo salto di qualità vuol dire ci devono essere delle camere di compensazione nelle quali la maggioranza e i protagonisti della politica economica, in questo caso innanzitutto il ministro, per rispetto al ministro, devono potersi parlare e devono trovare il modo per presentarsi con la stessa faccia di fronte all'opinione pubblica, dopo aver fatto una discussione che è assolutamente legittima in questo momento, perché come ha detto lei, come ha spiegato benissimo Baldassarre, di fronte a un cambio di passo, un cambio di fase che sta coinvolgendo tutta quanta Europa e di cui tutti i governi ne tengono conto, è evidente che bisogna tenerne conto anche qui. Questo implica anche il problema del rapporto con la Lega. Io penso, guardi, che la maggioranza sia solida, penso anche che la Lega tenga a questa solidità e sono convinto che Bossi alla fine sarà lui a dare una mano per trovare la quadra. Detto questo, è evidente, e soprattutto sotto elezioni, che all'interno anche di una maggioranza solida e nelle regioni del nord vi sia per forza di cose una concorrenzialità positiva che deve esplicarsi nel tentativo di essere più presenti nel territorio, di migliorare le proprie classi dirigenti, di migliorare le proprie proposte, ma fino a che sono due partiti differenti è chiaro che c'è una concorrenzialità. E allora se c'è questa concorrenzialità non si può giocare con due casacche. Per quanto si possa e si debba essere amici, chi sta con il PDL si deve mettere la maglietta del PDL. Questo è lo stato dei rapporti della Lega, perché questo facilita tra l'altro la ricerca di un rapporto proficuo con l'alleato. Le dico, ci sono tutti gli ingredienti. All'interno, quello che è strano, che ora che magari sui giornali c'è questo scontro, all'interno dei gruppi parlamentari e nei contatti, che aria c'è? I rapporti sono ottimi. Noi continuiamo ad essere una maggioranza unita. Riprendiamo con gli interventi di alcuni di voi ascoltatori su questa questione. Tremonti, nel merito della politica economica del governo, nella necessità di registrare i rapporti politici all'interno del governo e della maggioranza tra PDL e Lega. Cominciamo da Giorgio da Bologna. Prego Giorgio. Buona giornata. In due minuti è dura, ma vediamola così. Diciamo che sono in corso quattro partite quattro partite a scacchi. Ce n'è una che riguarda l'Italia e l'Unione Europea, i conti pubblici italiani che sono messi molto peggio degli altri, il debito pubblico, e in prospettiva anche il mantenimento dell'Italia nell'euro. Poi c'è una seconda partita che riguarda il PDL e la Lega, in prospettiva proprio per le elezioni regionali, e quindi la prendo io, la prendi tu questa regione. Poi c'è una terza partita che è il PDL, il partito del Sud, e il mal di pancia che si sentono in Sicilia sono un termometro piuttosto interessante. E poi c'è il tema dei temi di Silvio Berlusconi, che sono le tasse, che lui ogni volta dice di voler ridurre, che vorrebbe secondo me ridurre, ma che poi non può ridurre. In tutto questo Tremonti è l'unico alfiere che la Lega può giocare in un eventuale post Berlusconi. Non ci sono leader leghisti che possano ambire a Palazzo Chigi. C'è un leader, diciamo Tremonti, che leghista non è, ma è molto vicino alla Lega. Che però lei dice può fare la carta che spariglia per il futuro, vicino alla Lega, ma in realtà per la Lega. Chiarissimo, ha dato un criterio che non avevamo fino a questo momento colto. A dire la verità, i giornali di oggi dicono che Tremonti non si sentirebbe molto a suo agio nel fatto di essere oramai per primo indicato dai suoi colleghi di partito e di governo come un ministro della Lega, visto che il problema a Villa San Martino è stato affrontato in un vertice con la presenza di Bossi e certo non di altri esponenti del PDL. Ma vedremo. Giovanni da Mantova, che dice lei brevemente? Buongiorno dottore, buongiorno ai signori che sono con lei. Io dico questo, che un edificio si costruisce da fondamenta. Ora noi abbiamo una spesa diciamo pubblica che però riguarda soprattutto la spesa della politica italiana che ci cava sulle spalle e che ci sta sfiancando. Abbiamo tutti i record negativi del mondo. E dunque bisogna che Berlusconi, in prima di fare tutte queste strane alchimie politiche, riduca il numero dei parlamentari alla metà, dia delle funzioni nuove al Parlamento e oltretutto si abolisca oppure si aggiorni alla media europea quella mostruosità che è l'articolo 69 della Costituzione, che dice che i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita per legge, vale a dire che i membri del Parlamento determinano da sé medesimi i loro compensi. La fermo Giovanni perché ci sta parlando di interventi di riforma costituzionale. Come sa, i tempi per la riforma costituzionale non sono esattamente i più brevi nel nostro paese. Temo che invece le decisioni di politica economica debbano essere più rapide nel processo intertemporale che va dalle decisioni all'economia reale. Non abbiamo bisogno di aspettare tutti i tempi come quelli necessari per dimezzare il numero dei parlamentari. Io sarei favorevole, sarei per abolire le province, lo dico perché la maggior parte dei messaggi che vengono da voi continuano a dire le province, però sa, qui il problema adesso è cosa fare della finanziaria che si vota entro poche settimane. Marco da Milano, prego, breve. Buongiorno. Dica. Penso che il problema non sia tanto Tremonti, quanto Tremonti fa il suo mestiere, lo fa bene, nell'ambito delle sue possibilità. Il problema è un problema politico, occorre ridurre le tasse, mi riallaccio a quanto diceva lei, uno potrebbe essere quello dell'abolizione delle province, ci sarebbero tre risultati immediati, l'abolizione delle tasse e i costi, un riavvicinamento tra politica e cittadini e terzo una ridimensione dei costi della politica che ad oggi è insostenibile per questo paese. Un appunto al Baldassarri, penso che tanti enti locali abbiano già tolto i fondi perduti, perché ormai i residui non esistono più, il problema non è tanto la competenza quanto la cassa, mancano i soldi, ovvero i soldi che ci sono vengono spesi molto molto male. Grazie Marco Milano, ci siamo più volte occupati degli effetti un po' paradossali anche del patto di stabilità interna, per cui i comuni più virtuosi non potevano riallocare gli avanzi magari per i piccoli cantieri. Fabio da Roma, ultima chiamata, prego Fabio. Sì, buongiorno dottor Giannino, a lei e ai suoi ospiti. Al di là dei rapporti politici che non mi interessano granché, vorrei esprimere la mia solidarietà come papà e come cittadino nei confronti di chiunque voglia cercare di limitare la spesa pubblica e quindi ovviamente l'indebitamento. Ritengo che voler risolvere le crisi e quindi erogare fondi per aiutare chi non ha saputo curare i propri interessi significa semplicemente spostare in avanti la soluzione dei problemi, che poi in qualche modo dovrà poi essere trovata o aumentando le tasse oppure riducendo i servizi. Allora, io ho una bambina di 3 anni e non vorrei che fra 10, 20, 30 anni o anche quando io avrò bisogno, ad esempio, di servizi sanitari, poi ci venissero a raccontare che abbiamo un debito pubblico eccessivamente alto e quindi dover per forza tagliare la grazie, la grazie Fabio. Una domanda per il senatore Baldassarri. In Senato, all'interno della maggioranza, prima che di confrontarsi con l'opposizione, è inimmaginabile un patto col ministro per il quale tutto ciò che in più si concorda di tagli della spesa pubblica, lui, rispetto alle sue proposte allo stato attuale, lui accetta il confronto su come destinarlo, per lei che le ci ha lavorato e lo conosce? Guardi, ha profondamente ragione il mio vice capogruppo Quagliarello sulla questione di metodo. Lui sa che da mesi con altri senatori abbiamo chiesto al gruppo proprio questo luogo di confronto e lui e il capogruppo Gasparri hanno colto al volo questa esigenza. Il gruppo è convocato, si discute di queste cose, abbiamo diciamo una specie di seminario aperto in corso proprio sul metodo. Ma qui è il ministro il problema. Ecco, allora il problema è del rapporto tra Parlamento e governo, nel senso però del partito di maggioranza e dell'espressione più importante al governo del partito di maggioranza, che è il ministro dell'economia. Diciamo, risolto questo problema di metodo è proprio l'approccio che abbiamo fatto presentando gli emendamenti. Io non credo che se non avessimo presentato questi emendamenti insieme ad altri 15 senatori del PDL, forse saremmo qui oggi a discutere concretamente di cose che sono importanti non solo per il PDL, per la Lega, ma per l'intera Italia. E in questo dibattito, francamente, io spero che l'opposizione batta un colpo, perché capisco che erano presi dalla elezione del segretario. Però in una democrazia corretta l'opposizione deve dire anche la sua, dopo ci si confronta ovviamente nei ruoli specifici di maggioranza e opposizione. Allora il tema l'ha posto bene lei, Giannino, e cioè vogliamo sedersi a un tavolo, valutare gli 800 miliardi di spesa e individuare quella parte di spesa che francamente è tagliabile. Ecco, è tagliabile con quelle condizioni della bilancia che dicevamo prima, perché non è che si tratta di fare una passeggiata quando uno toglie decine di miliardi di grasso a chi con questo grasso prospera e magari inquina anche la stessa politica. Quindi da Baldassarri una chiara indicazione di metodo. Quagliariello, si sente di dire che col ministro ce la si farà? Ma guardi, io le dico anche un'altra cosa. Prima che scoppiasse questa buriana, devo dare atto a Tremonti di aver personalmente con me preso l'impegno di venire al gruppo e appunto di discutere in quella camera di compensazione quali erano i margini per quel cambiamento di fase di cui abbiamo detto. Va io bene, lo so, l'ho interrotta 3 volte, ma stanno interrompendo me perché ci stanno sfumando, perché la pubblicità incalza. Tanto continueremo a parlarne. Mi pare di capire comunque c'è un'ipotesi di tragitto di soluzione, di confronto col ministro. Vediamo, vi prenderemo in parola. Grazie a Pietro La Corte in regia, Alessandro Marco Turno in redazione, linea al giornale radio. 9 in punto, la versione di Oscar.